Chi l'avrebbe mai detto, tornar mai innamorare? Me annalliva menga per ogni da fare. Astra forse perché in pies fera l'amor, che son che io bisogno d'un professor. Am per quasi come quando destotà a scifleva tutti i desk napoletan, e appasseva la mattina taga un specie, e am sentiva toringir dai meduvec. Saula cunterla, la perna fola, am levident, 30 volte in un de. Aspetta la sera per niratore, come aspettesa et finir al sul de. E se andam in mezzo a un preaffera la mor, e gli urtighe in marugon im sembra in fior. Am saint stupid come tezzo tre zanfa, ca perdiva fin al nome d'la meca. È un deanxa che avesse 50, san sintesa innamorè come un salam. Approsau l'esser content, sentir musnior, perché niente è più bel che fer l'amor.